Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo della fase 2, le bozze che continuano a circolare individuano una possibile riapertura prima ancora del 4 maggio per alcune filiere, penso alla moda, al tessile e altri distretti del Made in Italy, e iniziano a esserci anche delle proposte, dei casi concreti in accordo con le rappresentanze sindacali per fare aprire le fabbriche ancora chiuse. Faccio notare che la Spagna, per esempio, ha già alleggerito molto la chiusura, penso all'edilizia ma non solo, e la Francia ha indicato nell'11 maggio la data in cui riapriranno le altre attività. Questo al netto di sorprese. L'altro tema di oggi molto grosso riguarda i mercati. Ora, Milano è la peggiore, ma di poco, lo dico, meno 4%, Francoforte perde il 3,80%, Parigi il 3,60%, Londra meno 3%, e Dow Jones ha dato un'ulteriore botta, meno 2,75%. Che cosa è successo? Un po' in ritardo le borse stanno facendo i conti con l'allarme del Fondo Monetario Internazionale, ma soprattutto fanno i conti con il primo dato che arriva dagli Stati Uniti dopo quello sulla disoccupazione, che è schizzata come sussidi da 200.000 a settimana a 9 milioni, il dato sulla produzione industriale americana a marzo è crollata del 5,5%. La cosa più importante è che le attese, già molto brutte, parlavano di un crollo del 3,5%. Le vendite al dettaglio negli Stati Uniti hanno fatto meno 9%, e anche qui al netto delle auto il calo è del 4,5%. Trump ha firmato gli assegni, diciamo così, che gli americani riceveranno nell'ambito del piano da 2.200 miliardi di dollari, e ha dato il via libero il tesoro americano al salvataggio delle compagnie aeree, sempre all'interno del piano di aiuto da 2.200 miliardi. Alle compagnie che li accettano è vietato effettuare forti tagli dell'occupazione dei salari fino a settembre. American Airlines dovrebbe ricevere 5 miliardi e 800 milioni di dollari, Southwest 3 miliardi e 200 milioni. Lo dico perché ho visto in questi giorni le polemiche su Alitalia, che avevano un senso a mio avviso pre-coronavirus. Adesso tutti gli stati, a partire dagli Stati Uniti, stanno andando a salvare, ma lo fa anche la Francia con Air France, le loro compagniere. Quindi da questo punto di vista, almeno all'Italia risulta un salvataggio meno oneroso questa volta. È anni, un decennio buono che la salviamo all'Italia, anche 15 anni, però non fa eccezione in questo senso. Questo per quello che riguarda l'elemento che ha fatto abbassare i mercati. Vanno male oggi lo spread italiano, è arrivato a 245 punti, perché poi c'è tutto il rapporto di oggi del Fondo Monetario sugli effetti sul debito, e nello specifico il Fondo Monetario dice loda l'Italia perché dice che l'Italia, pur essendo fra i paesi più colpiti, la reazione di bilancio è stata forte e appropriata, sta alla politica italiana e la sosteniamo, sta poi alla politica italiana decidere se usare il MES oppure no. Però il debito andrà quest'anno al 155% del PIL e al 150% nel 2021. Il deficit schizzerà all'8,3% quest'anno, per poi scendere l'anno prossimo al 3,5%, a parte che il PIL riparta. Perché ricordo sempre che è un rapporto deficit-PIL, non è il valore assoluto del deficit. E dice il Fondo Monetario, risolvere il nodo del debito e risolvere il problema della crescita italiana. Lo spread, dicevo, è arrivato fino a 245 punti, poi è ridisceso a 234. Non è ancora un livello di allarme. Ricordo che le tensioni politiche dopo le elezioni lo portarono sopra i 300 punti. Però Questo penalizza da un lato le banche, ma anche settori industriali veri e propri. I peggiori oggi non sono i bancari, è Saipem meno 8%, Atlantia meno 7,70%, Buzzi Unice meno 7,60%, Poste Italiane meno 7,5%, Case New Holland meno 7,30%, poi c'è una pattuglia di finanziari, Banca Mediolanum perde il 7,20%, Unipol il 7,15%, Fineco il 6,80%, Banca Generali il 6,60%, Unicredit il 6,20%, UBI meno 6% come B per banca. Tra i non bancari cito anche Steam Microelectronics meno 6,75%, Eni meno 6%, Leonardo meno 5,80%, mi fermo con chi perde più del 5%, quindi Leonardo meno 5,80% come Xore, Amplifon il 5,5%, il calo di Nexi, Pirelli, Mediobanca e il 5% è il calo di Banco BPM. Positiva di Assorin più 7,60%, alla luce anche dell'accordo, poi ci sono molte polemiche su questo, firmato con il San Matteo di Pavia, se non ricordo male, per testare appunto, per andare a produrre il test, quello per capirci, non il tampone, ma il test serologico, quello del sangue. Ricordati più 0,30%. Per quello che riguarda l'euro su dollaro, siamo a 1,09. Parleremo in apertura appunto del mondo delle imprese, poi di quello che riguarda la borsa e anche alcune tensioni. Torno all'appuntamento con Alessandro Praterotti con Dietro la Notizia, alcuni motivi non così chiari su perché l'Olanda abbia opposto una resistenza così forte a un prestito europeo garantito dall'Europa, e poi vedo che continua la polemica sul MES e quant'altro. Parleremo anche di quanto deciso Trump. Allora, uno può sicuramente criticare il metodo, perché levare 400 milioni dal fondo, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un metodo un po' discutibile, quantomeno, perché uno può fare delle critiche ma non levare i soldi all'OMS in questo momento. Detto questo, lo voglio dire molto chiaramente, non penso di poter essere accusato o accusabile di amare Trump. Secondo me bisogna anche stare attenti alla parte ingegneria politica. Il metodo non va bene, ma il contenuto a mio avviso sì. Cioè, l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ne ha imbroccata una, diciamolo chiaramente, ma soprattutto l'accusa più forte che viene mossa al suo presidente è quella di essere molto vicino alle istanze della Cina. Lui si chiama Tedros Adhanom Ghebreyesus, è l'ex Ghebreyesus, ex ministro della sanità etiope, oltre che ministro degli esteri, essere stato ministro degli esteri dell'Etiopia, che è uno dei paesi che ha maggior legame in Africa con la Cina. Lo dico non per sminuire il suo ruolo, ma è innegabile che, se andiamo a vedere le varie dichiarazioni, vi sia stato, soprattutto all'inizio, un eccesso di morbidezza anche in quella che è un prendere per buono tutte le dichiarazioni che arrivavano dalla Cina. Ho letto oggi, ma poi ne parleremo nella seconda ora di questo, un'intervista su Repubblica, se non ricordo male, dell'ambasciatore cinese in Italia. Per carità, tutto bene, ma c'è un passaggio, dopo aver detto che i dati sono, e la Cina ha gestito il virus in modo trasparente e tempestivo, nega ritardi e insabbiamenti, e poi c'è un passaggio in cui dice: noi siamo stati il primo paese a fare rapporto all'OMS in merito all'epidemia, ma non vi sono ancora certezze sull'origine del virus. Ma come? Adesso, per carità, ma avevamo capito che si fosse sviluppato nel contagio tra pipistrello e forse con un altro tipo di animale, come si chiama, il pangolino, quella roba, una specie di formichiere che mangiano negli wet markets in Cina, e che fosse arrivato in questo modo, nel contagio animale-uomo dovuto anche ad abitudini alimentari, ma soprattutto igienico-alimentari, in quei mercati che personalmente ho anche visto, e vi assicuro che è peggio di quello che si vede dalle immagini, e che questo è anche alcuni antropologi citano la continua espansione e erosione delle foreste cinesi. Detto questo, come si fa a dire non ancora chiara l'origine? E allora ci dica quello che vuol dire. No, lo dico perché io capisco tutto, però faccio notare che la Cina ha tuttora, conferma ufficialmente, 83.000 casi e 3.300 morti, che vuol dire che l'Italia e la Spagna, che viaggiano su 21.000 morti l'Italia, 19.000 la Spagna, la Francia con 15.000 e la Gran Bretagna ne ha già 12.000, hanno tutte dai 4 alle 5 volte, anzi alle 6 volte i morti dell'intera Cina, paesi che fanno tra i 60, i 58, i 50, i 48 milioni di abitanti, con contagi che sono meno della metà, cioè in la Cina meno della metà di quanto ha l'Italia, di quanto ha la Spagna, e quasi la metà di quello che ha la Francia e la Gran Bretagna. Io lo dico con massimo rispetto per l'ambasciatore, non è possibile credere a queste cifre. O ci spiegate veramente come avete fatto, o non è possibile credere a queste cifre. Comunque, parleremo anche di questo. E tra l'altro c'è oggi una Associated Press che dice che a gennaio, malgrado fosse già stato annunciato che si stesse profilando un'epidemia, la città di Wuhan tenne banchetti e feste di massa, mentre milioni di cinesi avevano iniziato a viaggiare per il Capodanno lunare. Il presidente Xi Jinping lanciò il suo avviso pubblico solo 6 giorni dopo il vertice, il 20 gennaio. Però Xi Jinping, in un'altra dichiarazione, ricorda di essere stato messo, l'ho scritto sulla rivista ideologica del partito, che aveva ordinato al Politburo il 7 gennaio di prevenire e contenere il coronavirus. Quindi non si capisce, l'avete saputo il 21 o il 7 gennaio, o il 20 o il 7 gennaio. Quindi io capisco tutto, però adesso vediamo di non prenderci in giro, no? Uno può anche dire, da questo punto di vista abbiamo gestito in maniera sbagliata, ammesso che esista questa possibilità in Cina di riconoscere di aver sbagliato, e ne parleremo. Così come, invece, venendo a casa nostra, e poi andiamo con l'apertura, non ho intenzione di tornare sulle polemiche, adesso vedo molto politiche, sulla gestione della crisi epidemica in Lombardia rispetto al Veneto, all'Emilia e altre regioni. Però, se posso dire, abitando in queste regioni, ci sono due cose che non capisco. Uno, non voglio far polemica, però guardate che è anche difficile continuare a spiegare al resto d'Italia, con i casi che ha, con i contagi bassissimi che ha soprattutto il Sud, ma anche il Lazio e anche il Veneto, che tutti devono stare chiusi per via della Lombardia. Ieri ho fatto la battuta fino a un certo punto. Cosa sarebbe successo se il 50% dei casi, dei positivi e il 50% dei morti fossero stati in Sicilia o in Puglia? Avremmo chiuso tutta l'attività produttiva delle regioni del nord anche a fronte di casi bassissimi a nord? Diciamocelo in maniera molto onesta. In questo programma abbiamo criticato molte volte la gestione delle amministrazioni locali del sud, nella classifica, nella poco invidiabile classifica, sono sempre ben presenti. Però, voglio dire, è un dato di fatto che in questo momento il Lazio conti, dall'inizio della crisi, gli stessi morti che fa in un giorno la Lombardia. E allora è inutile continuare, a mio avviso, a bloccare. Volete fare una zona rossa in Lombardia? E facciamo una zona rossa in Lombardia. Che qua si sta bloccando, ma non parlo solo dell'industria, parlo anche del commercio al dettaglio. Si sta bloccando un paese per una regione che palesemente, e non è una critica, visto che il Veneto è a guida leghista e Forza Italia, Zaia, ma ci sono mossi diversamente i governatori. Due cifre e poi mi taccio. Allora, i ricoverati in Lombardia, sul totale dei positivi, la Lombardia ha ospedalizzato, come dicono tutti ormai, o nosocomizzato, come dicono quelli che hanno studiato, la diffusione del virus, senza creare percorsi paralleli, evidentemente contagiando, non dico poi della direttiva, quella di portare i pazienti dimessi ma positivi nelle residenze per anziani, senza che vi fosse una struttura in quelle residenze per anziani parallela, cosa che si è dimostrata, mancavano camici, mascherine e quant'altro. Ma dico, la Lombardia ha ricoverato il 49% dei positivi, a partire da Bergamo e Brescia. Il Veneto il 21%, cioè uno su cinque. I sanitari contagiati in Lombardia sui casi totali sono il 12% e sono degli eroi, e ci hanno rimesso anche la pelle, purtroppo, alcuni di questi eroi. I sanitari contagiati in Veneto con i tamponi di massa sono il 5%. Lo dico non per far polemica con la regione Lombardia, ma perché è inutile che Fontana e Gallera continuino a trincerarsi dietro accuse politiche. Siccome bisogna imparare anche dagli altri, ogni tanto la Lombardia può imparare da qualcun altro? So che è un modello, so che si è sentita molto più figa di altre regioni. Può imparare dal Lazio? Può imparare dalla Campania, dove c'è l'ospedale per malattie infettive Cutugno, che non ha un medico? Un medico infettato? Qui abbiamo la strage di infermieri e medici per il modo in cui sono stati accolti i pazienti. È inutile continuare a menarla. Ogni tanto sbagliano anche i lombardi, sbaglia anche l'eccellenza lombarda, sbaglia anche la sanità lombarda, la gestione della sanità lombarda rispetto al Veneto. Inutile che mi tirate dentro sulla polemica contro la Lega. Il Veneto è a guida leghista e che Zaia ha adottato altre procedure, si è fatto consigliare in altro modo e soprattutto è sembrato avere una strategia giusta o sbagliata, mentre qui stiamo rincorrendo il virus, non si capisce cosa faremo sui tamponi, come garantiremo la positività o negatività delle persone. Allora, voglio dire, e poi prendiamo anche atto che la Lombardia può chiudere, il resto d'Italia può aprire se continuano in questo modo le... Ma lo dico per imparare dal futuro, perché se dovesse esserci un'altra ondata o comunque altri approcci o altri focolai, forse abbiamo capito anche in Lombardia che l'ultima cosa che devi fare è portarli subito in ospedale senza dei percorsi distinti. Forse abbiamo capito che è meglio fare l'approccio veneto, diciamo, per cui tu hai la medicina del territorio, tieni sotto controllo questi pazienti, chiaramente i medici vanno a visitarli con le mascherine, li controlli, fai tantissimi tamponi e riesci a, diciamo, controllare meglio i focolai, e vale anche per l'Emilia, vale anche per il Lazio. E non è possibile buttare sempre tutto in politica. Oggi sei un artista, mi scrive uno, va bene, oggi sono un artista, e cosa le devo dire? Però non me ne frega nulla della polemica politica. Le giunte regionali si valutano non perché sono leghiste del PD o dei 5 Stelle, ma in base alla gestione delle cose. E due giunte a uguale colore politico hanno gestito in maniera completamente diversa, con risultati completamente diversi. Anche i lombardi, anche la sanità lombarda, anche il rapporto sanità pubblica-sanità privata così forte in Lombardia, certo che ci fu Formigoni per degli anni e i danni che ha fatto ancora li vediamo, ma dico, forse si può guardare altri modelli, e basta guardare, diciamo, di là dall'Adda o dove volete voi, insomma, nell'ex Repubblica Serenissima di Venezia, e copiare il modello veneto. Tanto un modello leghista anche quello, non c'è nessuna ammissione di colpa, ammesso che questo fosse il problema. Allora, c'è chi mi dice giustamente che sono fesserie, la Lombardia è attaccata come New York, come Madrid e come Parigi. Le faccio notare un piccolo particolare. Per fortuna, e qui faccio qualunque scongiuro abitando a Milano, il vero caso enorme non si è verificato in Lombardia, a Milano, né in Italia, a Roma, che pure ha una bella proiezione internazionale, turisti cinesi, quant'altro, ma pensate Venezia, quanti turisti ha avuto tra gennaio e febbraio? No, si è verificato a Bergamo, Alzano Lombardo, Nembro e a Brescia, e i motivi li stiamo capendo, oltre che tutta la gestione delle strutture delle residenze per anziani. Ma scusatemi, sapete quanti morti ha la Lombardia per 10.000 abitanti? 11. Il Veneto è a 2 morti per ogni 10.000 abitanti, e l'Emilia Romagna, che pure è stata colpita parecchio, soprattutto a Piacenza, ne ha 6. Non c'è proporzione con il numero di abitanti. Poi se uno vuole continuare a dire che mi sembra veramente di parlare con cioè, no, si può sbagliare anche in Lombardia o non si può sbagliare in Lombardia? Dopo anni che critichiamo giustamente la gestione dell'amministrazione delle regioni del sud in molti casi, ma vabbè, dai, andiamo avanti con le altre notizie. No, vedo molti messaggi, però è chiaro che poi si butta sempre sulla parte ingegneria. Io ho solo detto imparare dal Veneto, così non la buttiamo in politica, per capire come ha funzionato un modello e imparare e non ripetere gli errori. Non sto facendo polemica sul passato. Vabbè, andiamo avanti, dicevo, di là del Fondo Monetario Internazionale, veniamo all'Italia. La Banca d'Italia ha detto, stima un calo del 15% nella produzione industriale nel mese di marzo, e l'INPS ha oggi fatto sapere che le famiglie che godono del reddito di cittadinanza sono 1.073.000 con 513 euro medi di assegno. adesso mi scrivono anche i bergamaschi. Guardi che a Bergamo c'è olio al serio, non le dice niente. Guardi che a Roma, adesso mi stanno girando, a Roma l'aeroporto di Fiumicino aveva 3 collegamenti quotidiani con One. Non mi risulta che a Bergamo vi fossero collegamenti quotidiani con One. Se vogliamo dire che il focolaio si è sviluppato a Bergamo perché c'è olio al serio, mi spiegate allora perché non a Venezia, dove c'è Tessera, che è un aeroporto ancora più internazionale di olio al serio, e non a Fiumicino e quindi a Roma? A Varese, dove c'è Malpensa, i casi sono molti meno, e come nel nord della Lombardia. Sono 3 province che fanno tutto. E che palle! Allora, non mi devo arrabbiare, avete ragione, andiamo su Gualtieri. Ci sentiamo le spalle ben coperte da un'istituzione comune europea, ha detto ieri in un'intervista a Porta a Porta, e poi ha aggiunto dall'Unione Europea servono 1.500 miliardi per le iniziative comuni. Si è aperto un interessantissimo dibattito in Italia, come se fossimo già alla fine del negoziato. Siamo nel corso del negoziato e l'Italia ha detto una cosa molto semplice: noi vogliamo che ci sia un impegno comune di risorse, di politica fiscale, sostenuto dall'emissione comune di titoli, che sia all'altezza di questa sfida. Le dimensioni sono, oggi sono contento l'abbia riconosciuto anche il vicepresidente della Commissione Dombrovskis, almeno 1,5 trilioni. Noi a questo ci serve, questo 1,5 trilioni deve essere di risorse comuni che si mettono insieme in campo per fare tutte insieme le cose migliori, per esempio i provvedimenti di sostegno diretto alle imprese fatti allo stesso modo in tutti i paesi con risorse comuni, sarebbe molto meglio e molto più efficiente. Ancora, per quello che riguarda il MES, qui voi conoscete la mia posizione, insomma io ritengo che si stia facendo un casino per il nome, ho detto anche chiamatelo punta MES se volete, cioè il MES nella parte di aiuti sanitari non prevede condizionalità e, come diceva Romano Prodi ieri in questi microfoni, tra l'altro se noi lo rifiutiamo in toto è più difficile poi il 23 di aprile chiedere fondo europeo per la rinascita, dicendo che abbiamo bisogno di soldi quando ci permettiamo di non chiedere 35 miliardi che potremmo ottenere fondi per la struttura sanitaria. Faccio anche notare che noi al MES abbiamo già versato 15 miliardi, almeno potremmo chiedere 15 miliardi visto che li abbiamo già versati, però ormai anche qui mi sembra che l'approccio sia ideologico. Oggi ospite di 24 mattina Radio 24 il vice ministro dello sviluppo economico Stefano Buffagni dei 5 Stelle, che ha detto no al MES, servono gli euro bond. Non sono mica soldi regalati, cioè, si tratta di ulteriore debito che verrebbe dato all'Italia in cambio comunque di alcuni limiti che sono previsti dai trattati e che se uno non vuole applicare o non vuole dover subire deve cambiare i trattati, altrimenti se no sono solo parole. Poi che la Spagna e il Portogallo lo vogliono utilizzare è legittima scelta. Noi oggi abbiamo bisogno di avere uno strumento che permetta all'Italia e a tutta l'Europa di ripartire dopo questo disastro, motivo per il quale il tema dei Eurobond, ma che non piacciono come nome in alcuni paesi del nord, allora i recovery fund devono servire a far ripartire il paese, far ripartire l'Europa. L'idea di dover per forza accedere a uno strumento che ci metterà dei limiti grossissimi, che dovrà pagare pure mio figlio fra 30 anni, non capisco perché noi ci dobbiamo fare da sole la corda, il cappio, o una corda che ci vogliono dare in un momento di difficoltà per strozzarci fra un po' di tempo. Allora, per carità, è vero che sono prestiti, così come sono prestiti anche altri, però qui bisogna decidersi, abbiamo bisogno di scorporare dal deficit in questo momento le spese sanitarie, sì o no? Poi sono d'accordo che serve uno strumento enorme, che non chiamiamolo Eurobond, chiamiamolo la francese piano di salvataggio europeo, e sono d'accordissimo con l'ex ministro Tremonti, devo dire con tutti quelli che poi l'hanno anche, che sono intervenuti dopo, che a mio avviso bisognerà trovare anche un modo italiano per finanziare la nostra ricostruzione, non certo con una patrimoniale ma con un'emissione obbligazionaria, diciamo un BTP a 50 anni salva Italia, chiamalo come vuoi, appunto quasi irredimibile con tassi di interesse garantiti, non tassabile non modificabile nella tassazione e che uno può lasciare tra virgolette in eredità ai suoi, anche ai suoi figli, un prestito che verrebbe sottoscritto per la stragrande maggioranza dagli italiani stessi, quindi non oggetto alla speculazione sul fronte dei mercati internazionali. Allora, a proposito delle imprese, devo dire che no, guardate, non mi interessa il fatto che Berlusconi sia d'accordo con il PD mentre 5 Stelle siano d'accordo con la Lega. Questo fa parte sul MES, intendo dire. Fa parte della polemica politica. A me sembra molto delicato una posizione in cui andiamo a rinunciare completamente a un MES senza condizionalità e però chiediamo con insistenza un altro fondo. Ma vedremo come si svilupperà il dibattito diplomatico. Spero che non ci infiliamo in un cul-de-sac da questo punto di vista. Veniamo adesso alla fase 2, cioè che quello che si immagina essere la fase 2. Mentre il ministro Gualtieri ha detto che l'erogazione dei prestiti da 25.000 euro inizieranno lunedì e che entro venerdì saranno accreditati, molti mi stanno scrivendo che li hanno avuti, i 600 euro. E ha detto anche Gualtieri che sono verosimili 800 euro per gli autonomi ad aprile, si sta iniziando appunto a immaginare come ripartire, forse anche prima del 4 maggio. Ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Parliamo al MES, non MES, sì, sono d'accordo con molti ascoltatori che dicono, ma insomma basta leggere le carte, è inutile che i politici continuino a dire bisognerà leggere, leggete i dettagli, a noi risulta che sia senza condizioni la parte che riguarda i fondi sanitari. Comunque la riapertura. Allora, a parte che le regioni stanno andando in ordine sparso, vabbè, sulle parti più diciamo che riguardano la vita privata, io vorrei parlare della fase 2. E per le imprese il governo sta ragionando anche attraverso il comitato tecnico presieduto da Colao di una anticipare una fase, la fase 2 su alcuni settori chiamati made in Italy, cioè moda, automotive e metallurgia. Sono filiere dove il lavoro si può organizzare, riorganizzare in sicurezza con più facilità. Perché lo dico? Perché chi conosce una fabbrica moderna, contemporanea, sa che c'è già spesso, molto spesso, tutte le volte che l'ho vista io, una grossa distanza fisica tra un operaio e l'altro. Spesso sono fabbriche che già lavorano dotate di mascherino con elementi di protezione, quindi è più facile rispetto a un esercizio commerciale con pochi metri quadri o a un bar o a un ristorante. E dovrebbe, potrebbe arrivare la riapertura una settimana prima, diciamo, del 4 maggio. Lunedì è previsto un consiglio dei ministri in cui potrebbero arrivare delle novità. La Lombardia ha chiesto la ripresa delle attività produttive dal 4 maggio e però insomma ci sono diversi approcci. Ora vorrei sentire i suggerimenti che arrivano da chi rappresenta un gruppo di imprese in Italia, ossia le aziende diciamo che hanno una conduzione di carattere familiare. Perché lo dico? Perché oggi affrontiamo due temi. Uno sono i 600 euro e soprattutto i prestiti alle imprese, 25.000 euro che ha promesso Gualtieri, che arriveranno da lunedì. Molti mi scrivono ancora del 30%, guarda che non è il 30% del fatturato di calo rispetto all'anno prima, ma è il fatto che deve rappresentare almeno 25% del fatturato. Il 33% del fatturato di calo nel mese di marzo rispetto all'anno prima vale per un'altra cosa, vale per la sospensione di versamenti tributari e contributivi, ma non c'entra con i 25.000 euro. Però i 25.000 euro non devono essere, l'importo non deve essere superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 25.000 euro. Allora, Francesco Casoli, presidente di Elica, ma soprattutto presidente dell'Associazione Italiana delle Aziende Familiari, sono oltre 180 imprese che da sole rappresentano il 15% quasi del PIL italiano. Buonasera. Buonasera Barisoni. Allora, senta, che cosa il governo appunto sta lavorando sulla fase 2, ci attendiamo un consiglio dei ministri lunedì prossimo che potrebbe anticipare per il cosiddetto Made in Italy, appunto quello che citavo io, la riapertura delle filiere. Poi arriveremo anche all'erogazione dei soldi e alla cassa integrazione. La convince l'idea che si inizi intanto a sbloccare per esempio la parte del cosiddetto Made in Italy? Barisoni, lei questa sera mi sembra un gladiatore, mi piace il suo approccio e io sono d'accordo sul far ripartire il Made in Italy, soprattutto quelle aziende, quelle filiere che esportano. Noi dobbiamo tornare a creare ricchezza e dobbiamo e abbiamo voglia, noi e tutti i nostri dipendenti, di uscire da questa fase di stallo. Detto questo, io le vengo molto dietro sul fatto che l'Italia non è tutta uguale. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Se la Lombardia oggi ha un grosso problema, è venuto il momento forse per il centro-sud, per l'altra parte dell'Italia, di dare una mano alla Lombardia, di dare una mano sostenendola con la ricchezza che viene generata dalle imprese. Quindi questo è il momento per far vedere che anche il resto dell'Italia è pronta a fare la sua parte. No, ma anche perché io dico una cosa, siccome dovremmo poi fare i conti con le entrate fiscali e quant'altro, prima perché le entrate fiscali ci servono, non perché su ste tasse, ma dobbiamo pagare la spesa sanitaria, lo ha spiegato anche l'ex ministro Tremonti da questi microfoni la settimana scorsa, per cui va bene sospendere per le aziende in crisi, ma prima ripartono le aziende, iniziano a fatturare, prima potranno anche versare IVA e quant'altro, IRAP, che sostiene la spesa sanitaria, e ci sarà bisogno di spesa sanitaria. Noi oggi lo Stato sta pagando le casse integrazioni, è una spesa incredibile mese dopo mese. Noi dobbiamo tornare a creare ricchezza per pagare il sistema pubblico, c'è poco da fare, l'Italia è fatta di privato e di pubblico e è giusto che sia così, ma il privato deve sostenere il pubblico, ma per farlo deve produrre, deve fatturare, deve esportare, deve riuscire a portare il più possibile ricchezza all'interno della nostra nazione, e per fare questo dobbiamo fare un patto sociale, dobbiamo veramente, guardi, io ho anche scritto un post dicendo che oramai è sicuro che noi rischio zero non lo raggiungeremo mai, o se aspettiamo il rischio zero penso che moriremo veramente tutti di fame. No, ma infatti io non penso che poi la decisione finale debba essere presa dai virologi, c'è la politica per questo. Bravo. I virologi devono andare e bene hanno fatto, a mio avviso, bloccare il paese. Ma al di là della mia opinione, vorrei capire una cosa, Casoli, perché lei ha un gruppo, presiede Elica, fate cappe industriali, cappe da cucina anche. Ora, io le fabbriche che ho visitato, ma non la sua, non l'ho mai vista, ho sempre visto che per come sono automatizzate, robotizzate e quant'altro, c'è già un distanziamento fisico molto alto, oltre che essere più abituate per tipologia di prodotto anche a lavorare con tutte mascherine e occhiali, elementi protettivi. Quale potrebbe essere la chiave di volta? Io ho suggerito per esempio un accordo con le rappresentanze sindacali, le RSU di base, e poi chiaramente mandare le verifiche degli ispettori, dei vigili, di chi volete. E quindi ispettori INAIL, guardie di finanza. La chiave di volta è trasparenza, è semplicità e trasparenza. Noi imprenditori dobbiamo chiaramente essere pronti a confrontarci su queste cose, e le assicuro che tutti i nostri associati di AIDAF sono pronti a confrontarsi con i sindacati e con chi vuole venire a controllare le nostre aziende. Dall'altra parte però ci serve a noi chiarezza. Lei prima parlava del Consiglio dei Ministri, parlava di Colao, fantastica persona, ma insieme a 20 altri che non so se riusciranno a trovare la sintesi. Difficile in Italia con 17 persone a trovare la sintesi. Noi abbiamo bisogno di chiarezza. Oggi onestamente vediamo un pochino di confusione, e la confusione in questo momento è nemica veramente della ripartenza. Non capiamo le regioni che tipo di posizione prendono, una dice una cosa, un'altra ne dice un'altra, è il contrario di quello che dice quella regione lì. Onestamente, Barisoni, la filiera produttiva, le aziende non sono localizzate in un'unica regione o in un'unica città, oramai le filiere logistiche sono sparse in tutto il mondo e in tutta Italia. Dobbiamo riuscire a capire come riattivare queste filiere. Le aziende capofila, la mia azienda lei l'ha citata, noi siamo capofila di quello che produciamo, noi siamo pronti, ma come noi tanti altri. Ma quando lei dice pronti, le faccio un esempio: io ho visto che per esempio sulle mense, che è un grossissimo problema, c'è stato anche la TM a Milano, ha organizzato delle mense dando degli orari precisi su quando tu puoi andare in mensa, perché è ovvio che non si può più fare come prima. Un altro imprenditore mi raccontava, un imprenditore veneto che ha organizzato la sua azienda nel settore alimentare, quindi ancora è rimasto aperto, anticipando l'uscita dal turno di un quarto d'ora e posticipando l'ingresso del turno di un quarto d'ora in modo da lasciare questa mezz'ora per far sì che non si incontrassero i due turni in spogliatoio, cioè non si incontrassero fisicamente. Ecco, lei come immagina di organizzarla questa messa in sicurezza? Noi immaginiamo di organizzarla come lo abbiamo già fatto, perché non ci scordiamo che le imprese italiane prima del lockdown già si erano attrezzate. Le nostre mense, per esempio, hanno oramai tavolini da 4, sono diventati da 2. Oramai i turni in mensa sono 3, per permettere appunto di avere un afflusso controllato e soprattutto una percentuale di persone all'interno della mensa molto ridotta. Cioè, le aziende queste cose qui le hanno già fatte e hanno, guardi, vi assicuro, abbiamo avuto tanto tempo a casa per pensare queste cose e per organizzarci. Ci sono stati gruppi di lavoro, grazie allo smart working, grazie a tutte le tecnologie che oggi sono a disposizione, che ci hanno permesso di prepararci. Noi siamo pronti, vogliamo avere chiarezza da chi ci governa. Chi deve prendere le decisioni deve anche sentire la nostra voce. Noi dobbiamo veramente far sentire che le imprese italiane, insieme ai sindacati, insieme ai lavoratori, sono pronte per prendere le proprie decisioni e le proprie responsabilità. Lei prima ha detto bene, la politica deve fare le scelte. Noi non possiamo continuare a parlare solamente di virologia, altrimenti veramente usciamo tutti matti, pensiamo solamente al virus e rimaniamo bloccati per i prossimi 6 mesi. Dobbiamo incominciare a capire che l'Italia si può muovere e può ripartire, chiaramente con i giusti passi, seguendo le giuste regole, essendo pronti a metterci in confronto con tutti quanti, ma non possiamo rimanere così, altrimenti fra un po' ci saranno problemi a pagare gli stipendi del pubblico. Quindi io non vorrei che c'è una parte d'Italia che pensa che lo stipendio continuerà ad arrivare anche se tutti quanti zappiamo la terra o diventiamo figli dei fiori. Non sarà così. Il nostro sistema economico, volente o nolente, la decrescita infelice, mi sembra sì, che la sera felice la stiamo già vivendo ed è, io l'ho battezzata la ricrescita infelice relativamente ai problemi, diciamo, di parrucchiere delle signore, non solo, perché di decrescita felice qua non si vede proprio nulla. Da questo punto di vista, Casoli, per concludere, lei dice noi abbiamo avuto tempo e ci siamo anche organizzati, quanto è importante essere avvisati prima? Voglio dire, io penso che il governo dovrebbe appunto dire almeno una settimana prima, guardate, la nostra roadmap, la nostra tappe saranno queste, se il virus, chiaramente se i virologi non ci dicono che il virus è tornato a rinfiammarsi, diciamo così, apriranno quella settimana le aziende della filiera del Made in Italy perché hanno le collezioni da fare, domani avremo anche chi produce cantieristica navale, e ci sono periodi anche stagionali in cui non è che puoi vendere le barche o vendere gli abiti quando vuoi. E poi dal 4 maggio inizieremo a aprire anche le attività commerciali, cioè vi serve anche un insieme di date? Barisoni, guardi, le imprese oramai lavorano tutte quante a budget e sono abituate a fare la programmazione a medio lungo termine, e lei chiaramente mi tira un amo bello con un bel verme, nel senso che, chiaro, se noi riusciamo ad avere perlomeno una settimana prima una idea di quando, e quindi una settimana prima, e soprattutto come dobbiamo riaprire, se quello che stiamo facendo, se il protocollo FCA è quello che dobbiamo seguire, perfetto, noi siamo pronti, le aziende sono pronte. Se Colau o non so chi decide di inserire qualcos'altro, ce lo dica. Una settimana prima va benissimo, ma guardi, mi spingo un po' più in là, 3 giorni prima va bene uguale. Adesso non dico il giorno stesso perché sarebbe esagerato, ma io la politica un pochino la conosco perché ho fatto purtroppo il senatore per 7 anni. So benissimo perché le assicuro che vedere la burocrazia dal di dentro è veramente qualche volta un po' scoraggiante. Io so perfettamente che la politica sceglie all'ultimo istante. Perché? Perché si vuole lasciare fino all'ultimo istante tutte le opzioni libere. In questo momento non è possibile. In questo momento la burocrazia e la politica deve capire che per una volta deve ragionare come ragioniamo noi privati. Noi dobbiamo avere una luce, o perlomeno dobbiamo avere una direzione. Diteci dove dobbiamo andare e noi ci adeguiamo. Allora, devo dare 2 risposte agli ascoltatori prima di salutarla. Uno dice, ma se poi le aziende riaprono il numero degli infetti risale. Ok, è un rischio, lo sappiamo tutti, vale anche per la Francia e per la Spagna. Faccio notare però che ad ora, e non voglio però, faccio tutti gli scongiuri possibili, i focolai e i grossi focolai non li abbiamo, e qui torno all'inizio del programma, li abbiamo visti negli ospedali e nei centri per anziani. Poi io, per come conosco gli imprenditori, penso che sia il terrore di qualunque imprenditore aprire e poi beccarti, diciamo, dei casi positivi, perché poi ti fanno chiudere completamente e la quarantena non dura più, perlomeno in Lombardia, 14 ma 28 giorni. Quindi io non penso che sia nell'interesse di nessuno dire vabbè dai, la tento. E no, perché se poi hai un focolaio chiudi, ma chiudi la tua, non è che chiudono altre. Per cui su questo io starei un pochino più cauto sull'idea che, quanto al recarsi sul posto di lavoro, questo è un tema delicatissimo, perché sappiamo che per i diversi modelli di imprese, in alcune regioni, lei delle Marche, Casoli, ma anche in Veneto, visto che lo citavo, in parte anche in Emilia, non c'è una tale infrastruttura di mezzi pubblici da utilizzare. Invece in Lombardia, e non solo, vale anche in parte per il Lazio, ci sono molti si recano al lavoro utilizzando metropolitane, ferrovie nord, ferrovie generali, mezzi pubblici, e lì bisognerà fare un piano con gli enti locali. Ho visto che oggi il sindaco di Milano Sala ha chiesto 4.000 tamponi per tutti gli autisti di ATM, avere corse più prolungate e avere meno persone ovviamente dentro i mezzi locali. Ecco perché bisognerà andare a agire caso per caso. Grazie anche a Francesco Casoli. C'è un ascoltatore che, guardate, non ho tempo di rispondere a tutti gli insulti oggi. Va bene, andiamo sul traffico e poi torna Alessandro Patriotti con Dietro la Notizia. Ci occupiamo di Olanda, su perché l'Olanda sia così contraria agli euro bond o comunque a obbligazioni garantite a livello europeo. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Focus Economia. Dietro la notizia. Allora, della opposizione fortissima dell'Olanda abbiamo detto più volte, opposizione ideologica per alcuni, non ricorda, è dietro c'è la Germania per altri, e anche per il consenso politico interno del premier Rutte, oltre che del l'impronunciabile, nel senso che non riesco a pronunciarlo, quindi non dico ministro delle finanze. In realtà Alessandro Platerotti, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a te Sebastiano, buonasera a tutti. Tu hai scoperto che potrebbe esserci anche qualcos'altro, non solo una posizione politica o di consenso interno, addirittura ideologica, perché non si vuole condividere con i paesi del sud il debito. Ma guardate, c'è una situazione molto interessante in Europa in questo momento, perché siamo arrivati a questa crisi con alcune tensioni di cui non si sapeva nulla. Questo è l'aspetto più, diciamo così, macroscopico che emerge dalla ricerca che ho fatto. Che cosa viene fuori? Ad esempio, l'opposizione olandese nei nostri confronti sull'Eurobond. L'Olanda, abbiamo scoperto, ma questo grazie alle tabelle che sono pubbliche e pubblicate sul sito della BCE e degli organi internazionali, ma nessuno le va a guardare. Viene fuori che l'Olanda è nel pieno di una bolla immobiliare straordinaria. Una bolla immobiliare, quindi del mattone. Sì, sì. Perché questo? Ricordate che nel 2008 la crisi finanziaria in Europa cominciò da che cosa? Dalla crisi immobiliare in Islanda. Cioè un paese con 300.000 abitanti riuscì a mandare in crisi attraverso il settore immobiliare l'intero sistema bancario europeo. Perché? Per l'interdipendenza che c'è tra i rapporti finanziari. Ma parliamo dell'Olanda, per quale motivo? Perché secondo la stessa BCE e gli organi di vigilanza europei, e questo ce n'è traccia di lettere pubblicate sul sito dell'archivio loro, viene fuori che l'Olanda a fine marzo, a fine marzo di quest'anno, quindi parliamo proprio alle porte già con il virus avviato, che cosa aveva? Aveva una situazione di indebitamento iper alto di tutte le famiglie e dei risparmiatori olandesi, legato non solo alla casa, ma legato soprattutto a un indebitamento dato generosissimo a tassi zero ma senza garanzie per gli acquisti del credito al consumo. Morale, vi do un dato per avere un'idea. A fine marzo gli olandesi avevano un rapporto fra il debito che devono pagare alle banche per le rate di casa e altri prestiti e il loro reddito pari al 207%. Per avere un'idea, l'Italia è 61%. Cioè, tu mi stai dicendo che gli olandesi hanno un rapporto tra debiti, tra mutui... 270 volte più alto. Certo. Queste sono cifre, io vi sto leggendo dalle tabelle della BCE. Ripeto, in Italia lo stesso rapporto, ovvero quanto paghiamo di interessi sui nostri acquisti di casa o della carta di credito, dei prestiti al consumo... è il 60% con reddito, sì, è 270. La media allora, domanda, fermati Ale, perché Alessandro vorrei l'ultima risposta tua. Perché il fatto che gli olandesi siano così indebitati rispetto al reddito, sia per il mutuo che per le spese, per il credito al consumo, li pone così resti a creare delle obbligazioni europee? Hanno molta paura dei tassi di interesse. In quale misura? Noi stiamo vivendo in un momento... Se non ci fosse stato il coronavirus e la previsione di un calo del PIL europeo drammatico del 9%, 10%, quello che si dice, la situazione avrebbero anche potuto controllarla. Adesso hanno paura. Per quale motivo? Se si fa una condivisione del rischio debito nazionale in Europa, quello che chiamiamo con gli Eurobond, è evidente che lo stock di debito esistente, quelli che sono i tassi, noi abbiamo 2.300 miliardi, quindi consideremo il debito futuro in questo senso. Ma che cosa succede? Per il fatto dell'Eurobond i nostri tassi scendono, per questo li vogliamo, se no non li vorremmo, ma quelli degli altri più forti salgono, perché si riparametra il rischio in Europa, sono basi comunicanti, il livello deve rimanere uguale in questo senso, quindi loro avevano già paura di quello, che si alzassero i tassi, se si alzano i tassi, si alzano i tassi sui mutui, e quando uno è indebitato per 270 volte il reddito che ha, anche una variazione piccola può creare una serie di... Quindi il motivo nel ringraziare Alessandro Paterotti, vista la sua diagnosi precedente, è che è chiaro che a noi converrebbe, perché avremo un costo del debito un po' più basso, con tassi più bassi, che non a piazzare il debito nostro da soli come Italia. L'Olanda avrebbe dei tassi un po' più alti, con il rischio di fare saltare l'intero meccanismo, visto l'altissimo indebitamento degli olandesi nei confronti rispetto al loro reddito, e quindi poi se ti salgono i tassi del mutuo e i tassi del prestito rischi di saltare, di avere una grossa crisi dentro il paese. Grazie anche a Alessandro Paterotti, GR24. Focus Economia. Diciotto e sette minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, ci colleghiamo col punto stampa della Protezione Civile. Coloro i quali sono rientrati oggi, ieri sono rientrati dal primo turno della task force, sono i primi medici che hanno esaurito il periodo di 21 giorni al servizio del paese della Protezione Civile. Io mi fermo qui. Professore, se vuole aggiungere qualcosa, oppure passiamo direttamente alle domande. Andiamo direttamente alle domande. Prego. Allora riprendo subito la linea, perché è iniziata un po' prima del previsto oggi la conferenza stampa. Allora, i dati di oggi, per quello che riguarda i contagiati totali, e quindi abbiamo spiegato in questi giorni che un conto sono i malati, quando dicono 1127 più di ieri, è al netto dei dimessi, di chi è guarito, e al netto, ahimè, di chi è deceduto. Quindi l'elemento che guardiamo di più è il numero totale, ed è di 2667, che è un dato più basso rispetto ai 2970 di ieri e 3000 del giorno prima, e 4000 di domenica, 4600 di sabato. Insomma, tutta la settimana scorsa si è viaggiati tra i 4.000, si è viaggiato tra i 4.000 e i 3.500, e quindi l'incremento è più basso oggi dei contagiati, è del 1,1%, però noi guardiamo sempre i ricoveri, soprattutto le vittime. Allora, le vittime sono 578 più di ieri, Quindi sono, il dato di ieri era stato di 602 e le vittime sono salite del 2,7% contro il 2,9% di ieri. I positivi, quindi la differenza tra i dimessi, deceduti, ahimè, e invece ancora positivi sono 1000 e adesso riprendo il dato, 1127 più di ieri. Questo è il dato netto, con anche qui la Lombardia, visto l'apertura che abbiamo fatto oggi, a fare da padrone, 558 più di ieri come differenza tra deceduti e dimessi, quindi positivi. L'Emilia Romagna ne ha meno 201, il Piemonte ne ha più 140, il Veneto più 53, Toscana più 65, Liguria meno 2, Marche più 2, Lazio più 25, Campania meno 7, Trento più 22, Puglia più 21 e ancora Sicilia più 10, Abruzzo più 10, Umbria meno 40, Sardegna meno 30, Calabria più 3 e Val d'Aosta meno 11%. Questo dimostra anche la differenza enorme tra, tra le regioni, tra la regione Lombardia e le altre regioni. I deceduti sono ancora alti, però lo dico, è vero che sono meno di ieri, ma sono ancora 578 e adesso stiamo cercando di capire anche il numero di ricoverati in più, perché quel è il dato che ci interessa più rispetto al, al dato sui neo, come li chiamano, i neocontagiati, perché i guariti fanno più 2,5%. E anche in questo senso è importante, perché da questo punto di vista il dato è un dato positivo. Mi sembra che il dato ancora negativo sia obiettivamente quello sulle vittime, però bisogna capire queste vittime da quanto tempo, come sono arrivate anche in ospedale e soprattutto a che periodo fanno riferimento. E per quello che riguarda altri messaggi che stanno arrivando, non tanto sulla cala, eccolo qua, cala anche il numero di ricoverati in terapia intensiva, che è l'altro dato che guardiamo sempre con attenzione, mentre il numero dei ricoverati non lo abbiamo ancora, lo attendiamo più tardi. Allora, meno 107 vedo adesso in terapia intensiva. Purtroppo i dati stanno arrivando un po' col contagocce, anche perché, ed eccolo qui, meno 107, mentre il netto fa 1127 più di ieri. Ancora l'ultimo dato per quello che riguarda mi chiedete se la conferma della somma tra nuovi contagiati, dimessi e deceduti è di 2667, sì, questo è il dato, e che porta il totale tra contagiati, guariti e ahimè deceduti a 165.000 persone. Questo mi sembra che stia rallentando come andamento. Comunque, sì, non ho capito anch'io, molti mi chiedono ma come mai così tanti deceduti, ho capito, non è tanto, guardate che guardare i deceduti e i ricoverati in terapia intensiva è proprio per non andare a guardare solo i contagiati. Sappiamo che lì c'è il tema dei tamponi, ecco perché non cito più il dato sui tamponi, perché i tamponi non sono omogenei, ma il numero di ricoverati, il numero di ahimè deceduti ti dà anche, e il numero di posti in terapia intensiva ti dice la pressione sulla struttura sanitaria, che è stata la prima emergenza che abbiamo dovuto affrontare. Allora, andiamo adesso sulla borsa, perché la giornata oggi è stata pesante, ed Milano ha chiuso sui minimi, quasi meno 5%, meno 4,78%. Per carità, anche Parigi ha perso il 3,70%, Francoforte il 3,90%, Londra il 3,34%, l'America sta perdendo sul Dow Jones il 2,80%, però Milano appunto almeno un punto percentuale peggio delle altre borse europee. Malissimo alcuni titoli industriali, lo spread ha chiuso poi sui livelli abbastanza alti rispetto a 235 punti, con un rendimento del BTP italiano a 10 anni all'1,88%, 0,5%. La borsa, dicevo, e allora come sempre la facciamo con i colleghi di Radio Core, il Sole 24 Ore. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. Ora, i titoli li do, ma solo per, diciamo, per cronaca, i peggiori: Atlantia meno 9,20, Banca Generali meno 9, Poste Italiane meno 8,80, come Buzzi Unicem l'8,5 lo perde Saipem, ma anche CNH, l'8,30 Mediolanum, l'8% Nexi di calo, il 7,5% di calo lo fanno Estreme Microelectronics, Fineco Bank, B e Biper, il 7% lo perdono Unipol e UbiBanca, il 6,5% Unicredit, Amplifon, Mediobanca, Exor ed Eni, e mi fermo con chi perde più del 6%, Prismian meno 6,20%, positiva di Assorin più 7%. Il tono generale della seduta? Sì, una seduta direi caratterizzata da due fattori principali. Sicuramente l'impatto negativo che è arrivato dai dati americani e i dati macroeconomici, sia sulle vendite al dettaglio circa meno 9% nel mese di marzo, sia sulla produzione industriale oltre meno 5%, che hanno dato il senso dell'impatto sull'economia reale del mese di marzo dell'emergenza sanitaria, ma anche i dati che stanno proseguendo sulle trimestrali americane, con ben 3 delle principali banche. Ieri abbiamo iniziato JP Morgan e Wells Fargo, oggi Citigroup, Goldman Sachs e Bank of America, che hanno dimezzato gli utili nel primo trimestre, anche per accantonamenti cautelativi in vista dei prossimi mesi. Questo ha dato un po' ha permesso un po' una correzione forte dei listini, che peraltro negli ultimi 20 giorni circa avevano recuperato circa il 20% dai minimi del mese di marzo, ma poi anche un tema Italia che si è fatto vedere soprattutto sulle banche e soprattutto sui titoli di Stato, non solo sulla scadenza a 10 anni, ma direi soprattutto sulle scadenze a breve. Con il rendimento dei titoli a 3 anni che è salito all'1%, quindi appiattendo la famosa curva dei rendimenti, cioè la differenza di rendimento tra i 3 anni e i 10 anni, che è ormai inferiore ai 100 punti base, questo segnala ovviamente una tensione nel breve termine, sicuramente legata in parte alla incertezza, al dubbio che riguarda l'attesa e le scelte dell'Italia sul tema MES, le scelte europee sul tema dell'Eurobond, e dall'altra parte anche per le emissioni che si attendono copiose di titoli di Stato italiani, soprattutto sulle scadenze a breve, per far fronte a quella che è un'emergenza immediata. Sì, ecco, poi come tu ricordavi, a livello di tenore complessivo, quindi non solo sull'Italia, c'è stato anche il dato sulla produzione industriale americana, che è un dato più brutto di ogni attesa per quello che riguarda il calo della produzione industriale americana nel mese di marzo. Chiaramente il dato di aprile non c'è ancora, ma se tanto viene a tanto sarà anche peggiore, meno 5,4% la produzione industriale a marzo contro un'attesa di un meno 3,5%. Grazie anche a Andrea Fontana, Radio Core, Sole 24 Ore. Andiamo sul traffico. Focus Economia. Allora, adesso andiamo alla polemica che è anche economica, visto che gli Stati Uniti versano 400 milioni, sono il primo finanziatario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ho detto che non personalmente ritengo sbagliato il metodo di Trump, quindi levare i soldi in questo momento, però a mio avviso qualche problemuccio anche qui. Ho visto adesso la dichiarazione dell'OMS, rammarico per la decisione di Trump, dice Tedros Adhanom Ghebreyesus, che è il direttore generale, ex ministro alla salute e agli esteri etiope. Gli USA sono stati a lungo generosi amici dell'OMS, speriamo che continuino ad esserlo. La Germania invece poco fa ha annunciato la riapertura dei negozi da lunedì, i negozi fino a 800 metri quadrati. E quello a quanto hanno deciso lo Stato e i Länder in una conferenza ancora in corso. Attenzione, perché adesso se partono non voglio fare la gara di ripartenza. La Germania ha gestito, aveva molti più posti in terapia intensiva, ha fatto molti più tamponi, e quindi ha un altro problema rispetto a noi. Però mi preoccupa più quello che vogliono fare Spagna e Francia, ecco, se devo dirla tutta, perché spesso sono nostri concorrenti diretti. E quindi attenzione, andate avanti con la fase 2 nella massima sicurezza, ma ripeto, prima riparte un po' di economia, prima riusciamo a pagare tasse e a mantenere anche la sanità pubblica. Adesso ho il dato dei ricoverati, che sono meno 1,5%, questo assieme al dato sui decessi è un dato che guardiamo sempre, perché meno ricoverati significa meno pressione sulle strutture sanitarie e quindi anche una gestione, così come guardiamo il dato sulle terapie intensive che continuano a liberarsi. Oggi è il 12° giorno che c'è un dato in calo sulle terapie intensive. Però torniamo all'OMS, perché il metodo sicuramente anche è sbagliato, ma era interessante vedere alcune cose da questo punto di vista, cioè come si è mossa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, al di là delle accuse che ha fatto oggi l'agenzia americana AP alla Cina. Però insomma, il 14 gennaio l'OMS diffonde un tweet in cui ricorda come le indagini preliminari condotte dai cinesi non dimostrano la diffusione tra umani. Ok, poi non dice nulla sul medico Li Wenliang, messo la berlina, prima arrestato, poi trasformato in eroe, nel frattempo è morto, quello che l'ha individuato per primo è morto per il coronavirus. Il 30 gennaio l'OMS, dopo un incontro a Pechino con il presidente cinese Xi Jinping, dice: la Cina sta effettivamente definendo nuovi standard per la lotta alle epidemie. Si è visto. E poi elogia la dedizione delle autorità e la trasparenza dimostrata. Poi parte la crociata contro gli Stati Uniti, accusati di alimentare paura e stigma per aver bloccato l'arrivo dei voli della Cina, e criticata anche l'Italia su questo. E poi gli esperti dell'OMS vanno in Cina e elogiano Pechino per avere dispiegato il più ambizioso, agile e aggressivo sforzo di contenimento della storia. E poi la pandemia viene dichiarata l'11 marzo. Ora, a me sembra così, al di là che vi sia stato un eccesso di fiducia nelle informazioni che arrivavano dalla Cina. E su questo non voglio mettere in imbarazzo una persona che spesso viene a raccontarci in questi anni, ci ha raccontato, e anche in queste settimane, come la Cina si era mossa a gennaio, fine gennaio, con il lockdown e quello che era successo poi adesso che stanno riaprendo le attività. Saro Capozzoli, visto che lei lavora a Shanghai, dove alla IESA e aiuta le imprese italiane a entrare nel mercato cinese, buonasera. Sì, buonasera. Allora, lei sa che qua ci sono due temi di dibattito. Io ripeto, ho visto l'intervista all'ambasciatore cinese che dice addirittura non sappiamo ancora l'origine del virus, questa se la poteva risparmiare. Uno è la trasparenza dei dati, cioè, allora, l'opinione pubblica cinese secondo lei crede che la Cina possa aver avuto come contagiati in 1,5 miliardi di persone la metà, meno della metà dell'Italia, meno della metà della Spagna, la metà della Francia, l'equivalente della Gran Bretagna, e che come morti possono essere sostanzialmente un settimo quasi di quelli italiani, un quinto di quelli francesi e un terzo di quelli britannici? Beh, non so se credo o non crede, ma quello che è stato fatto è, quando si è deciso di chiudere, si è chiuso veramente. Cioè, il lockdown che ha fatto la Cina nella provincia di Hubei è stato veramente totale, non c'era possibilità di andare fuori a fare la spesa, era impossibile uscire fuori, hanno isolato la popolazione in una maniera impressionante, cioè non è come quello che stiamo vivendo qua noi adesso in Italia. E lì loro sono passati da un momento di incertezza. Io sono d'accordo con lei sul fatto che hanno agito un po' tardi, ma lei deve anche capire una cosa: com'è grande la Cina e com'è farraginoso e lungo il processo, la catena di decisione. Prima di arrivare a Pechino l'allarme ci è voluto quasi un mese, perché ci sono state delle defaillance locali, delle indecisioni locali, che poi si è tradotte in un ritardo nella decisione. Poi alla fine quando l'allarme è scattato e si è capito che era un SARS-2, loro hanno, non dico in poco tempo, comunque hanno agito in maniera molto decisa. Quindi non possiamo, il fatto che ci siano stati meno contagiati e meno morti, posso capire, perché è stato proprio una zona rossa enorme, grande quanto l'Italia, ma una zona rossa come quella che abbiamo avuto a Codogno, moltiplicata per migliaia di volte. Ecco, certamente ci sono state delle defezioni, c'è stato anche il sindaco qui, no, il segretario del Partito Comunista Maguo Qian dell'Hubei, che ha fatto mea culpa, è stato proprio il 31 di gennaio, si è anche dimesso, cioè, proprio perché è stato lì il problema. Quindi, cioè nella comunicazione, perché sì. A noi risulta che però Xi Jinping poi abbia ammesso che lui dal 7 febbraio lo sapeva, l'ha messo in un documento, in sapeva, no, dall'8 di febbraio sapeva questo. No, dal 7 di gennaio dice lui in un documento, Capozzoli, io lo dico perché... Sì, beh, adesso vado a memoria, comunque... È una... No, lo dico io perché ho qua i dati, Xi Jinping scrive sulla rivista ideologica del partito che già dal 7 gennaio aveva ordinato al Politburo di prevenire e contenere il coronavirus, quindi qualcosa, ecco, non torna. Ancora qui ripeto il fatto di come reagisce per un sistema mastodonico come quello cinese. Io devo anche far notare che anche qui in Italia non è che abbiamo eccesso nella comunicazione, abbiamo dichiarato il 31 di gennaio l'emergenza nazionale e gli appalti per comprare le mascherine e cose varie sono partiti a metà di marzo. Ecco, questo diciamo è un discorso un po' generale, vedo, perché ci siamo mossi veramente anche no, ma io non sto dicendo Capozzoli, no. che la Cina che noi ci siamo mossi più velocemente dalla Cina, no. Sto sì, dicendo sì. Che secondo me, glielo dico in maniera molto tranquilla, sì. Le cifre fornite dalla Cina sui contagi e sui morti non sono credibili, tutto qua. Allora anche ammettendo che Wuhan, certo. Che sia solo Wuhan è una zona, la regione che fa 60 milioni di abitanti, giusto? Sì, la regione Hubei è la provincia. Quindi fa come l'Italia o la Francia. Va bene, allora sì. Nell'Hubei hanno avuto un settimo dei morti e un terzo dei contagiati, là dove è nato tutto, nei wet market, con condizioni igienico-sanitarie, me lo faccia dire, che non sono esattamente quelle della Francia o dell'Italia, o minimo l'ho vista la Cina, hanno avuto un settimo dei contagiati, un settimo dei morti e un terzo dei contagiati a parità di densità di popolazione rispetto alla Francia, alla Spagna e all'Italia. È un po' difficile. Sono d'accordo con lei, però ripeto anche questo. Il fatto del lockdown che è stato fatto è stato totale, cioè non c'era gente che andava in giro al lavoro, non era possibile. Nel momento in cui togli qualsiasi possibilità di contatto, io posso cercare di capire, sono d'accordo anch'io che sono numeri, lo dico anch'io, un po' sospetti, no, io non sono qui a difendere assolutamente la Cina, però c'è una differenza fra quello che è stato fatto prima, che c'è stato un po' un ritardo, ma poi quando l'hanno capito hanno chiuso veramente tutto. Io ho visto le immagini proprio quando dall'altro sono andati a mettere barriere e stazioni, hanno chiuso tutto, tutti a casa, e per due mesi la gente è stata a casa, ma veramente a casa. Sì, oddio, anche qua, guardi Capozzo, adesso al di là di alcune immagini, guardi che qua stiamo a casa tutti, non è che c'è qualche pirla, qualche coglione virus in giro, no. Ma adesso sta cosa che qui stiamo a casa, il problema è che i numeri non tornano, saremo noi più gracili dei cinesi, evidentemente. No, senta, non mi è dica così, una cosa, ripeto... secondo lei, per concludere, è nell'opinione pubblica cinese, so che non è una democrazia, quindi è difficile, ma è in discussione la leadership di Xi Jinping o no? No, lui invece ha aumentato molto il suo consenso, questa è la cosa, perché quello che è stato fatto poi dopo, poi anche, io quello che vedo, tra le persone che conosco, ma vedo anche i commenti delle persone, cioè la Cina poi nel momento in cui c'è un momento di crisi si stringe davanti, di fronte, attorno al proprio leader, il vero leader è Xi Jinping. Sì, spero che non si stringa troppo perché in tempi di coronavirus. Perché diciamo che a Shanghai sono arrivati 15 miliardi di dollari di aiuti, in prestiti e in supporto immediatamente, cioè è arrivata una valanga, quasi 1.2 miliardi di 1.2 trilioni di dollari dell'economia. Sì. No, 1.200 miliardi, sì, sono arrivati in una maniera massiccia e stanno cercando di spingere l'economia che sta ripartendo. Oggi è ripresa la Honda a Wuhan a produrre, la Apple ha aperto i negozi, cioè si è ripreso, però c'è anche questo grande aiuto, che sono stati sospesi gli affitti, sono stati, cioè nel senso la leadership secondo ho me capito. Ho capito, insomma lei lei ritiene, insomma, che numeri alla mano e sondaggio alla mano vi siete in un momento del consenso. No, mi interessava capirlo per capire poi com'è stata vissuta questa intera vicenda in Cina, perché vedo che invece sono un po' sulla difensiva, temono che venga usato il coronavirus per attaccare politicamente la Cina. Ma non è questa sicuramente l'opinione di chi vi parla. Grazie anche a Saro Capozzoli, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.